Sebbene che si approce, paura non abbiamo, non abbiamo un euro in tasca, ma non ci lamentiamo, la libertà non viene senza la ribellione, pace trans e femministe contro il maschio padrone. Rassegna eventi. Siamo in piazza Sagliao Pino, oggi è domenica, perché siamo qua? Ne parliamo con Uno di Meno Firenze. Siamo qua per denunciare le violenze, che sono le aggressioni che sono avvenute a Firenze nelle ultime 3 settimane, ce ne sono state ben 4, sono tutte aggressioni homo, lesbo, transfobiche, sono tutte aggressioni sessiste, razziste, e quindi siamo qua perché pensiamo prima di tutto che Sagliao Pino sia un quartiere dal quale è importante ripartire, perché appunto non è il centro espropriato dal turismo di massa, ma arriviamo di più ai cittadini, ai fiorentini in questo modo, quindi ripartire dal quartiere. E siamo qua soprattutto perché una delle ultime aggressioni è stata commessa ai danni di una nostra compagna, e quindi vogliamo rispondere, la nostra autodifesa, il nostro modo migliore per rispondere è quello della collettività, di farci vedere che siamo tante e che se toccano una reagiamo tutte. Ecco, perché non i metodi securitari, perché li rifiutate? Rifiutiamo i metodi securitari semplicemente perché la violenza patriarcale è strutturata, è strutturale ed è soprattutto nelle istituzioni che si ritrova spesso il verticismo della violenza patriarcale, della società che noi stesse rifiutiamo, quindi comunque rifiutiamo i metodi securitari perché pensiamo che ci difendiamo noi e non ci difendono i poliziotti, ad esempio. Come dicevano le compagne messicane un po' di tempo fa. Quindi seguirà un corteo, immagino. Sì, seguirà un corteo fino a San Donato, fino al centro commerciale di San Grazie. La domenica fare le cose non è facile. E seguirà un corteo appunto fino alla piazza del centro commerciale di San Donato, dove speriamo di trovare molte persone, e dovremmo srotolare uno striscione sempre sull'autodifesa femminista. Ok, bene, benissimo. Come stanno andando le campagne di Non Una di Meno? Le campagne di Non Una di Meno come stanno andando? Allora, in questo momento diciamo che Non Una di Meno è diventata, penso che siamo in un momento di crescita comunque con le, per quanto riguarda il collettivo e per quanto riguarda la politica, siamo in un momento, una fase di crescita in cui ci stiamo cercando di dare dei punti cardine sui quali lavorare. Uno di questi punti che ultimamente si sta sviluppando sempre di più è quello di, appunto, sempre tramite l'autodifesa, che la sorellanza è autodifesa, diverse donne che subiscono violenze si stanno rivolgendo proprio al nostro collettivo per avere aiuto, quantomeno compagnia, sorellanza appunto e autodifesa, quindi anche in questo senso rifiutiamo le misure securitarie e ripartiamo da noi anche così. In questo momento ci stiamo muovendo molto su questo. Per il resto la campagna Smutandate l'abbiamo messa momentaneamente in pausa, anche se ci stiamo continuando a lavorare perché stiamo approfondendo degli argomenti per poi poterci lavorare meglio a livello burocratico soprattutto. Okay. Non avete uno spazio a Firenze dedicato a Non Una di Meno, però vi ritrovate settimanalmente, se non sì, mi sbaglio? Ci troviamo settimanalmente ogni mercoledì a partire dalle 7 alla biblioteca femminista, che sarebbe in via Fesolana 2B. E chiaramente vabbè, sono assemblee soprattutto organizzative, ma una al mese la dedichiamo all'autocoscienza. E sono tutte aperte a chiunque abbia bisogno di appunto sorellanza, di compagnia, di fare due chiacchiere e anche di parlare di politica e di organizzarci da noi. Bene, allora grazie mille e buona fortuna per tutto. E buonasera, bentornati e bentornate. Buonasera, Trapunta. Buonasera, Briccobaldo. Buonasera, caro Mario. Abbiamo gli ospiti da tantissime. Avete sentito? Questa era una di meno. In occasione del presidio di ieri, che poi è diventato un corteo, ha sfilato da San Jacopino fino a Novoli, al centro commerciale, ha steso uno striscione in risposta alle aggressioni diverse, almeno tre, che vi sono state a Firenze nell'ultimo mese. È stato un fine settimana ricco, pieno di eventi antifascisti, antisessisti. Abbiamo iniziato da faccio un po' un grande riassuntone. Abbiamo iniziato da venerdì con l'anniversario della strage di Piazza Dalmazia per Samb, per Diop, anche per i DDN, ma anche per Piazza Fontana. E c'è stato un corteo da Piazza Dalmazia, ha sfilato a Refredi, non numerosissimo, però insomma comunque un'ottima commemorazione. Il sabato invece in Piazza della Signoria il tema era quello del Kurdistan, del Rojava, soprattutto il lancio del boicottaggio contro la Turchia. E su questo purtroppo abbiamo anche da dare delle brutte notizie, perché uno dei temi di sabato era il processo che si è svolto stamattina a Torino contro i tre foreign fighter, anche se loro, se te li chiami foreign fighter, ti tonfano, perché giustamente non siamo noi a farlo. Esatto. Quindi. Comunque fatto sta che purtroppo il PM ha chiesto la sorveglianza speciale per Paolo, Eddie e Andrea, se non mi sbaglio, no, mi sbaglio, 2 e 1 anno, quindi non è andata come speravamo. E tornando a ieri, poi San Jacopino, ne abbiamo sentito uno di meno, abbiamo sentito anche alcuni attiviste della Squirt, era presente Firenze Antifascista, è stata una giornata notevole. Ma siamo qua per la Trapunta e quindi andiamo sugli eventi futuri, a partire dalla punta.org. Sì, sì, ma non volevi, mi dicevi prima, rimanere ancora un attimo su San Jacopino? Sì, rimaniamo su San Jacopino perché abbiamo delle altre voci, degli altri contributi. Sono un po' distratto, scusami, ma no, lo senti che sono un po' malato, che ho questa voce sì, un po' pizzichina. Mi hanno detto che fino a 2 giorni fa eri senza voce. Ma ti sarò comunque scudiero. Dai, sull'altra punta. Due settimane fa, nei pressi di questa piazza, un compagno è stato aggredito in quanto soggettività non binaria, in quanto omosessuale. È stato aggredito perché ancora nel 2019 fa strano, fa scandalo che un uomo o una donna porti una minigonna. Nel caso della donna, portare una minigonna è legittimazione allo stupro. Nel caso dell'uomo è un pinocchio di merda e per questo va menato. Noi ci siamo stancate della violenza patriarcale che siamo costrette a subire tutti i giorni, dal posto di lavoro alle scuole e persino nelle strade. Siamo qui oggi in piazza per riprenderci il diritto di transitare come vogliamo, quando vogliamo e dove vogliamo, senza che nessun maschio stupratore sessista ci aggredisca. Nell'ultimo anno sono più di 50 i casi di aggressione omofoba denunciati in Italia. Per elencarne alcuni, 12 gennaio, una coppia omosessuale, dopo un corteo, subisce una serie di calci e pugni perché non poteva partecipare al corteo. Bolzano, la Lega vieta il bacio in pubblico in tre parchi. Salerno, vandalizzata la sede dell'Arcigay. Ravenna, il preside è gay, vandalizzato l'ufficio. Bologna, minacciato di morte il tassista omosessuale. Bari, aggressione omofoba, 1 febbraio. Cagliari, festaggio omofobo contro due giovani, poi gli aggressori mettono il video online. Roma, stupri e rapine seriali contro i gay, 18 febbraio. Bergamo, 19-2, vietata la teoria gender negli asili. E così andando avanti, sono centinaia i casi di aggressione omofoba, di violenza sessuale in tutti gli ambiti, da quelli militanti a quelli più istituzionali. Noi ci siamo rotte di questa continua oppressione che viene dallo Stato prima di tutto, e viene dal capitale, e viene da un'educazione che è patriarcale fin da quando nasciamo e cresciamo, con l'idea della famiglia da difendere, con l'idea del decoro, dell'apparire bene, dell'essere totalmente servili a questo sistema. La notte ci piace, vogliamo uscire in pace, ci piace pure il giorno, levatevi di torno. La notte ci piace, vogliamo uscire in pace, ci piace pure il giorno, levatevi di torno. Accenderemo candele per rischiarare la terra ed il mare, idealmente abbracciare tutte le case, e un governo più ladro ha lasciato senza acqua, manca l'acqua. Stavo guidando a passo d'uomo dentro una fila interminabile di semafori ed auto, e avevo davanti un camion di frutta gonfia e rigogliosa, sicuramente era nata lontano da qua. Figlia voluta, desiderata, figlia agognata, e ma abbastanza baciata, figlia fuggita, dimenticata, e sopra un camion di frutta, di nuovo desiderata, figlia voluta, figlia amata, e figlia agognata, e ma abbastanza baciata, figlia fuggita, dimenticata, e sopra un camion di frutta, di nuovo desiderata, manca l'acqua. Manca l'acqua. Manca l'acqua. Manca l'acqua. Ora dunque, allora della settimanale rassegna degli eventi dallapunta.org. Prima di tutto vi ricordiamo un po' i nostri contatti. Il blog, se ci state ascoltando in streaming lo sapete, wombat.noblogs.org. La frequenza è la 13.59, ancora qualche problemino. L'indirizzo di posta è postawombat@insiberia.net. Scriveteci come sempre. Ogni settimana ci arrivano veramente una quantità di mail che non riusciamo a leggere da quante sono, e per questo vi ringraziamo. Ma iniziamo la rassegna dallapunta.org. Si inizia con oggi, anzi ora, alle 17, cioè esattamente adesso, presso il Circolo Mario Bencini, in via Giuseppe Saverio Mercadante 58, la rete dei collettivi organizza Rojava Calling. Questa è un'assemblea dal 17 al 19, dove come relatori sono stati invitati Alessandro Rossetti e il padre di Orso, e il rappresentante della comunità curda Erdal Karabey. Quindi ricordo, alle 17, se non ci siete ancora, correte subito. Ma dovete anche correre per il secondo evento che presentiamo di questa settimana. Inizia oggi alle 18 nel plesso didattico di Viale Morgagni, incontro e dibattito su contenzione fisica e farmacologia, psicofarmaci, psichiatria e antipsichiatria, col percorso psiche, ambulatorio popolare e codice rosso. Ma ne parleremo fra poco, quindi non stiamo ad anticipare niente. Sempre oggi alle ore 21 allo studentato gestito Ponte di Mezzo 27 in via del Ponte di Mezzo c'è la proiezione di Parasite, il direi oramai tradizionale Cineforum del lunedì allo Studentato. Alle ore 21 la proiezione rispetta il posto e i suoi occupanti, rispetta la corte e i suoi abitanti. Ripeto, alle ore 21. Presentiamo poi un evento ricorrente a partire da questa settimana, 8-1, il dopolavoro di chi odia il lavoro, presso l'occupazione di Viale Corsica, mercoledì, giovedì e venerdì, apertura dalle 17.30 alle 22. Sprizza un euro, simpatia, sociopatia, alcolismo e cospirazioni. Tutte le settimane, dalle 17.30, mercoledì, giovedì e venerdì, in Viale Corsica 81. Andiamo a mercoledì 18 dicembre alle 18.30 fino alle 20.30 vi sarà un all'Out Bar a Prato in via Filippino 12, vi è l'assemblea per gli operai che sono stati denunciati, diciamo la prima applicazione del decreto Salvini erano gli operai di un'industria tessile che in seguito al picchetto sono stati denunciati e hanno preso delle multe salatissime. Tutto questo è promosso da Siccobas. Quindi, ripeto, 18 dicembre alle 18.30, Out Bar a Prato. Chiacchiere sul code reversing, mercoledì all'Emerson, l'ultimo appuntamento del ciclo organizzato da IFDU, la club di Firenze. Dalle 19 alle 23 l'appuntamento è Disassembler, Decomplier e Debugger al CSA Next Emerson. Sempre mercoledì 18 dicembre c'è la cena alle 20.30 per l'autofinanziamento dell'Ateneo Libertario Fiorentino in Borgo Pinti al 50 Rosso. Volete anche il menù? Vi diciamo anche il menù. Crestone, cavolo nero e olio nuovo, penne allo zafferano di Mondeggi, involtini verze e ceci, torte vegane, cocco e cioccolato fondente, pane di Mondeggi e vino buono. Tutto al 15 euro. Prenotazione Ateneo Libertario Firenze @inventati.org. Nataleone 2019. Buonasera a tutti quanti, stiamo capo che mamma presenta l'evento più fresco e natalizio di tutta la vernata. Aiù, Nataleone, arrivate Nataleone. Un Nataleone è una lo festeggiamo, siamo tutti compagni, parliamo, facciamo iniziative politiche e sta ogni anno in da nostra occupation. Allora, buonasera a tutti e a tutti, siamo qui per presentarvi l'evento più atteso e natalizio di tutto l'inverno, il Nataleone. Il Nataleone è una giornata di festeggiamenti e iniziative politiche che ricorre ogni anno nella nostra occupazione. Cominciamo col culturale. Principiamo con il culturale. Giovedì col collettivo Artemide affronteremo tematiche LGBT. Venerdì il collettivo Psiche presenterà il libro Realismo Capitalista di Fischer. Mentre sabato insieme a Mondeggi terremo un'iniziativa su estrattivismo urbano e devastazione ambientale. Ogni sera mattina musica bomba glat e ci stanno i spritz a birra a due. Poi siamo contenti che venga una vera vaglione a suonare davvero forte. E giovedì ci stanno due vogliono fiorentina e doc la voce, la chitarra, ci cantano il sornello antico, nuovo tutte cose. Poi domenica, classica conclusione del Nataleone, giornata di chill out, che significa che stiamo tutti in un coppo di vano, ping pong, pimpilea, cioccolato, giochi da tavola e tutte cose. E come ogni anno ci sarà la storica gara di torte, voglio un non faccio. Allora, ogni sera ci sarà musica e bere ai poco. Saremo deliziati da vari selector e giovedì da due ragazze fiorentine che con voce e chitarra ci canteranno stornelli antichi e nuovi. Domenica, classica conclusione del Nataleone. Giornata di sbazzo, ping pong, vin brûlé, cioccolata calda, giochi da tavolo e tanto tanto altro. Non mancherà come ogni anno la nostra storica gara di torte. Questa è un'occasione come tante per mantenere in vita il nostro quartiere. Contro chi ci vuole chiusi nelle nostre case per tutto l'anno, addirittura dalle nostre case, strade e quartieri ci vuole buttare fuori. Ci vediamo il 19, 20, 21, 22 dicembre in via del Leone 60-62. Per maggiori informazioni seguire la pagina Facebook Occupazione Via del Leone. Arrivederci, adieu. Traduzione bilingue a cura degli occupanti di Via del Leone. Tutto questo è il Nataleone. Via del Leone 60-62, questo fine settimana. E sempre giovedì 19 dicembre alle 18.30 vi è la Critical Mass Firenze che raddoppia quest'anno, essendo l'ultimo giovedì troppo vicino a Natale, cioè il 26 sarebbe. Ve ne saranno due, una il giovedì 19, sempre 18.30, Piazza Santissima Annunziata. Non mancate. Garufa Polverosa, il tradizionale appuntamento ormai del giovedì alla polveriera Spazio Comune, via Santa Reparata 12R. Garufa, un incontro di tango dove divertirsi ballando abbracciati. Dalle 19.30 aperitivo, dalle 20.30 si balla. Pratica autogestita con tande e cortile. Partecipanti curiosi assai benvenuti. Stavolta balleremo nella sala all'interno. Portate scarpe comode e abbracci capienti. Questo giovedì in polveriera. Sempre giovedì 19, un giorno zeppo di eventi. Alle ore 20 abbiamo la cena in piatto, la cena al polo scientifico, anche questa tradizionale, via Madonna del Piano 6 a Sesto Fiorentino, attesissima come sempre. Dovete prenotare, mi raccomando, il costo è 10 euro, però dovete prenotare entro lunedì 16, cioè oggi, presso il banchino che troverete all'ingresso del blocco aule. Che cosa c'è? Hummus, pasta al forno, lenticchie purè, vino a volontà, e se sei celiaco comunicalo prima. Dai, Al cantiere sociale Camillo Cienfuegos, questo giovedì dalle 21 in via Chiella, sempre a Campi Bisenzio, lo stato della strage. A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, dibattito con i compagni dell'archivio 68. Allora, invece venerdì in Piazza Tasso vi è il settimanale mercato, ma questo venerdì è speciale, il 20 dicembre alle 15 arrivano le arance di Massimo. Massimo è un agricoltore che arriva dalla Calabria e che sta portando avanti una lotta di resistenza alle agromafie. E quindi per questo ha anche scritto tutto un comunicato per spiegare bene la provenienza delle sue merci. E anche la storia, subito. E anche la storia, la sua storia, sì, fra l'altro molto molto interessante. Sì. La trovate naturalmente sull'evento della punta.org. Intanto potete recarvi venerdì alle 15 per prendere le cassette di arance, clementini e limoni. Questo venerdì 20 dicembre, l'avevamo detto prima, all'interno del Nataleone, l'occupazione di Via del Leone, il percorso Psiche presenta il primo Aperi Psiche, in cui parleremo di realismo capitalista di Mark Fisher. Sarà il primo approfondimento che abbiamo oggi e quindi ne parliamo fra non molto. Sì, sì. Venerdì 20 dicembre alle 19.30 presso la polveriera Spazio Comune in via Santa Reparata 12R abbiamo una serata punk hardcore. Allora. E dai. Allora. Allora, si inizia con i Collapse. No, lo vuoi dire te? Dillo te. Non toccava. Vai. Collapse, Thrash Hardcore Heroes, poi Loya, Black Hand, Punk Hardcore. Anzi, Punks, Hardcore. E infine, per chiudere, i Dagnet, che sono Old School Death Grind. Bar a prezzi popolari, come sempre. Senti, ma qua io in realtà avrei una sorpresina. C'è una nuova rubrica che inizia adesso per gli ascoltatori della Trapunta. E dai. Via, sì, via. Sì. Che tutte le settimane, quando avremo in questa superba scena punk HC Fiorentina un evento, abbiamo iniziato da questa settimana a chiedere al nostro guru dell'HC, al Magister of the Punk, a DJ Lomax. E allora abbiamo un piccolo audio in cui racconta meglio di quanto faremo noi questa super serata, in questa super rubrica. Ciao a tutti e a tutte, io sono DJ Lomax, forse vi ricordate di me per trasmissioni come La Revancia e basta, perché ho fatto solo quella. Siamo qui all'interno della Trapunta con questo piccolo sussidiario che chiameremo Trapunkta, in cui vi parlerò dei prossimi concerti punk in città. Il prossimo è appunto il 20 di dicembre, si terrà alla polveriera Spazio Comune e ci saranno tre gruppi, tutti e tre di Firenze, due dei quali non calcano i palchi o i presunti tali, perché spesso e volentieri i palchi ai concerti punk neanche ci sono, da diverso tempo. I primi sono i Loya e si sono riformati con un nuovo batterista e hanno aggiunto al proprio organico anche un bassista. Ci ritornano a suonare dopo diverso tempo, accompagnati dai Collapse, anch'essi assenti per un breve periodo dalle scene. I primi fanno un hardcore molto sporco, molto tendente al black, diciamo, mentre i secondi ci propongono uno dei più classici degli anni 80, il crossover thrash hardcore cantato in italiano e via andare. Concludono la serata i Dragnet, una formazione grind vecchia scuola che non suona, che suona da diverso tempo. E niente, questo è il concerto in pillole, il concerto di venerdì 20 alla Polveriera. Vi consiglio di andare, la dose di violenza sarà assicurata. Bene, grazie Ivan, ne faremo tesoro. Torniamo alla rassegna eventi e sabato 21 e domenica 22 troverete il mercato di Natale di mano in mano, il mercato dell'usato, all'occupazione Via del Leone in occasione del Nataleone. E invece conclude questa rassegna domenica 22 dicembre alle Piagge in piazza Ilaria Alpi presso il centro sociale Il Puzzo. Tazebau, il muro parlante delle Piagge, che è stato allestito sulla facciata, racconterà nuove storie nel periodo di Natale. Venite a leggerlo e ad ascoltarlo. Sabato 14 dalle 10 alle 19 ci sarà che mercato di Natale. Sì, beh, infatti c'è stato il mercato di Natale, per arrivare a domenica 22 prossima, in cui invece ci sarà alle 16.30 l'inaugurazione del Tazebau con una merenda, l'anteprima del documentario Apriti Piazza di Alberto Tempi ed Elena Bartella, e alle 18 installazione La Forma dei Desideri, un laboratorio di ombre cinesi che sono state realizzate con gli abitanti del quartiere. Infine, martedì 24 dicembre, ne parleremo la settimana prossima. Direi. Sì. Che si fa? Piccolo stacchetto prima degli approfondimenti? Io direi di mettere un pezzaccio punk di quelli che ci sentiamo questo fine settimana. Vai. Avanti, okay. Avanti. Ci vediamo dopo con Percorso Psiche, Betune, Codice Rosso e tutti, tutte. A tra pochissime. Torniamo nella tana del Wombat per approfondire non uno, ma bensì ben due argomenti, due eventi, con praticamente quasi le stesse persone, perché il Percorso Psiche questa settimana vedrà un evento stasera, fra pochissimo, sì, è un evento sull'antipsichiatria e la contenzione, insieme al collettivo Betune e il Codice Rosso, che è il collettivo di medicina. E poi invece un altro appuntamento è quello di venerdì in Via del Leone, parlando di Mark Fisher e realismo capitalista. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao a tutti e a tutti. Benvenuti e benvenute nella Tana del Wombat. Grazie. Questa voce che l'avete già sentita sulle nostre frequenze. Da dove iniziamo? Intanto magari iniziamo col presentare Percorso Psiche, anche se in verità magari ascoltatori e ascoltatrici già un po' vi conoscono, visto che siete venuti a presentare il Manicomio Invisibile questa primavera, o forse anche la primavera scorsa. Però dai, insomma, chi siete, cosa fate e perché fate? Allora, comincio io presentando un po' il collettivo. Percorso Psiche è un collettivo nato da ormai più di un anno, comunque è recente. È nato inizialmente come percorso di autoformazione su iniziativa di alcuni studenti e studentesse di medicina e di psicologia, come percorso di autoformazione sulla legge 180, la cosiddetta legge Basaglia, che è un tema che viene poco affrontato a psicologia e per niente a medicina, quando invece appunto almeno alcuni degli studenti di medicina andranno a specializzarsi in psichiatria e dovrebbero almeno sapere il quadro giuridico legale entro il quale si muovono. Da questa spinta è nata una prima iniziativa, il Manicomio Invisibile, la prima edizione nel 2018, e da lì c'è stata l'aggregazione di altri studenti, studentesse, laureati in diverse materie, non solo psicologia e medicina. Io per esempio sono laureato in filosofia, ma insomma poi si è costituito come vero e proprio collettivo che ha portato avanti il percorso di autoformazione, che si è concretizzato in una seconda edizione del Manicomio Invisibile quest'anno a marzo del 2019. Credo che qualcuno delle nostre compagne sia venuto anche a presentarlo. Sì, fra l'altro anche una parte del Manicomio Invisibile, la prima giornata, si può ritrovare come podcast su Radio Wombat, perché è stata registrata e caricata. Esatto. E altri no, mi dispiace, non ce l'ho fatta. Però comunque sulla nostra pagina, la pagina di Percorso Psiche su Facebook, si trovano comunque anche le registrazioni del Manicomio Invisibile del 2019. Fin da subito il Percorso Psiche ha collaborato con la compagnia teatrale di Hill e la Balanza, con uno stage teatrale a fine dell'iniziativa, e questo ha dato il là, diciamo così, a un secondo aspetto del collettivo, insieme a quello dell'autoformazione, che è quello dei percorsi esperienziali di crescita personale e collettiva, che credo sia uno dei tratti più qualificanti del collettivo. E ovviamente il terzo livello è quello dell'iniziativa politica, come quelle che andiamo a fare stasera e questo venerdì in Via del Leone, stasera appunto in Viale Morgagni e venerdì in Via del Leone. Direi che per ora come presentazione ci può stare. Sì, allora partiamo da stasera. Sì. Parlate di contenzione. Sì, allora stasera è alle ore 18 nell'auletta autogestita in Morgagni c'è la proiezione di un film documentario del 2015 che si chiama 87 ore, di la regista Costanza Quattriglio, ed è appunto un film documentario che parla di 87 ore di... Non dura 87 ore. No, dura un'ora e 20, se non mi sbaglio. Di la storia della morte di Francesco Mastrogiovanni, un uomo di 58 anni, maestro delle elementari e anarchico. È noto alle forze dell'ordine per le sue posizioni politiche e il 31 luglio 2009 in una spiaggia di un campeggio del Cilento viene circondato da carabinieri, vigili urbani e addirittura la guardia costiera, e lui rimane in acqua per circa 3 ore, poi viene convinto dai carabinieri di uscire dall'acqua e viene fatto salire su un'ambulanza e portato nell'SPDC di Vallo della Lucania. L'SPDC sarebbe Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, e dove viene sottoposto ad un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, e addormentato per la quantità di la sedazione ricevuta. 2 ore dopo il suo arrivo nella struttura viene legato al letto con cinghie, sia ai polsi che alle caviglie, e morirà dopo 87 ore il 4 agosto 2009 per mancanza di cibo e acqua, quindi è morto di fame e di sete. E questo film documentario è principalmente, sono riprese delle telecamere all'interno della stanza in cui si trovava. E beh, perché abbiamo scelto questo film? Perché? Beh, per diversi motivi. Prima di tutto, il problema di abuso di TSO è un problema attuale in tutta Italia, e soprattutto per denunciare il fatto che questo trattamento viene spesso usato come atto repressivo, e infatti Mastro Giovanni è un caso, un esempio emblematico e terrificante di questa cosa. Lui è morto per abuso di TSO attraverso la contenzione meccanica. Fondamentale comunque da distinguere contenzione da TSO. La contenzione non è considerata un trattamento sanitario. Esattamente. Sì. E che cos'è la contenzione? Cos'è la contenzione? Intanto ci sono vari tipi di contenzione, giusto? Esattamente. Intanto, prima di tutto, è una pratica coercitiva, quindi ti privo principalmente della tua libertà. E può essere fisica, può essere meccanica. Meccanica vuol dire come Mastro Giovanni, quindi che ti lega un letto. Quella fisica invece? Acchiappato, semplicemente? Acchiappato o... Sì, tramite il cosiddetto holding, diciamo, l'abbraccio. Ok. Per dare un termine. Sì, esattamente. Sì. E poi ci può essere anche quella chimica, attraverso l'uso di psicofarmaci o vari tipi di farmaci. E quella ambientale, che può essere ti chiudo in una struttura o in una stanza e... Okay. Chiudo a chiave. Sì. Quindi durante i TSO viene scelta una di queste contenzioni, vengono usate tutte, vengono a seconda del caso. Le due cose non coincidono. Cioè ci può essere contenzione anche in assenza di TSO, ci può essere anche... TSO in assenza di contenzione, anche se è veramente difficile. Sì. Effettivamente il problema è che la legge 180 non specifica, che è la legge che introduce il trattamento sanitario obbligatorio, non specifica di che cosa si tratti, perché essendo sanitario viene, per così dire, affidato alla responsabilità dei medici che tipo di trattamento fare. La legge non lo può specificare in questo senso. Ma soprattutto il TSO dovrebbe essere, se fatto, in casi cioè rarissimi, proprio la rarità della rarità. Invece qui c'è un problema di abuso, e soprattutto la contenzione non viene fatta solamente nei luoghi sanitari, come può essere appunto un... cioè all'interno degli SPDC, ma avviene soprattutto, può avvenire nelle case di riposo e all'interno delle carceri. Ed è un problema che, cioè, il punto è che la contenzione non è regolamentata in nessun modo, quindi diciamo che... Quindi si arriva magari a vedere una contenzione fatta con un taser. Sì, sì. Proprio può essere considerato... No? Sì. È proprio per questo che, cioè, è una pratica che in qualche modo è quotidiana, anche forse non ce ne accorgiamo molto spesso. E quello che mi viene da dire e da invitare tutte e tutti, che se per caso abbiamo attraversato o attraversiamo luoghi di questo genere, o conosciamo qualcuno che ci lavora o che li attraversa, ad esempio abbiamo detto che la contenzione può venire anche in casa di riposo, quindi è molto più diffusa di quanto pensiamo, e noi stiamo raccogliendo testimonianze e materiale per anche effettivamente crearci un'idea di come, quando, perché in qualche modo tutto ciò avviene. E soprattutto fondamentale, come diceva prima Matteo, il collettivo parte soprattutto da un percorso di autoformazione e formazione, e quindi è importantissimo il dialogo, cioè parlare con i lavoratori e le lavoratrici, e soprattutto le persone che studiano, per rendersi conto di dove potrebbero lavorare e come, soprattutto per non diventare possibili carnefici. E soprattutto prima hai citato la 180, e beh, la 180 è fondamentale nel momento in cui ha permesso la chiusura dei manicomi, e in quel momento tutto ciò è stato possibile grazie a una lotta collettiva, politica, sociale e soprattutto culturale. E anche insieme a questo è stato possibile grazie a dire di no. Basaglia negli anni 60, Gorizia, a un cambio turno si rifiuta di firmare il registro delle contenzioni notturne e da qui, appunto da questo no, tutti noi dobbiamo impegnarci a dire di no e a agire. A dire di no, esatto. No, appunto parlavi della legge 180, risale al 78 se non mi sbaglio, quindi sono passati 41 anni, però evidentemente il lavoro da fare è ancora tanto, perché la contenzione è una cosa usata più che quotidianamente. Io fra l'altro in un RSA ci ho lavorato per gli ultimi 4-5 anni, uh-huh. E quindi ne ho viste veramente tantissime di contenzioni. Mi permetto di dire, poi magari voi potete smentirmi, che anche quando si parla di contenzione non possiamo generalizzare, nel senso che è una contenzione anche una spondina del letto alzata, però c'è una bella differenza, ecco, fra alzare una spondina per non far cadere un paziente dal letto e invece magari legarlo al letto. Quindi... Certo, come diceva Frida, sicuramente si tratta di una questione culturale. Cioè l'aspetto culturale è importante, per aspetto culturale si intende anche appunto la formazione degli operatori, perché si dà per scontato che in qualsiasi circostanza è giusto legare una persona, è un conto, vederla come misura estrema è un altro, come anche i trattamenti sanitari obbligatori. C'è un grande abuso in Italia, però appunto a seconda degli SPDC, insomma dei luoghi dove questa viene svolta, le cose possono cambiare molto proprio gli SPDC cambiano molto da territorio a territorio a seconda di chi ci lavora, di che mentalità, quindi è un lavoro proprio culturale di come gli operatori sono formati e di poi come gli operatori vanno a lavorare, e anche poi invece anche di cultura del territorio, delle strutture territoriali, che se ci sono o non ci sono o quanto sono in contatto le strutture sanitarie cambia tantissimo, ecco. Ad esempio gli SPDC in Italia sono 321 e solamente circa, questo dato è probabilmente dell'ultimo anno, solamente circa 20 sono no restraint, cioè non si applica la contenzione, però solamente alcuni di questi sono effettivamente non solo non applicano la contenzione casomai meccanica, ma anche quella ambientale, cioè la porta è aperta. Su 321, esatto. Alcuni è un... Esatto, no, questo appunto per dire che le alternative ci sono, certo. Alla contenzione, a qualsiasi tipo di contenzione. Io, fra l'altro, su Radio Wombat abbiamo intervistato circa un anno fa, era ottobre del 2018, un ricercatore, si chiama Robert Whitaker, un ricercatore che ha fatto una sintesi delle ricerche in ambito psichiatrico negli ultimi 30 anni, e è riuscito a dimostrare che l'utilizzo degli psicofarmaci, quindi delle contenzioni chimica, come dicevate prima, non si può generalizzare, nel senso che lui, vabbè, ora intanto ha scritto un libro, ha fatto una raccolta delle ricerche, si chiama, se non mi sbaglio, Cronaca di un'epidemia, e attraverso questa raccolta lui riesce a dire che l'utilizzo degli psicofarmaci non sempre è positivo o non sempre è negativo, nel senso che quando gli psicofarmaci vengono usati in situazioni acute, va bene, in situazioni di crisi comportamentali acute, possono avere degli effetti anche positivi, nel senso che possono riuscire effettivamente a calmare, certo. A calmare le persone. Quando invece l'utilizzo degli psicofarmaci è dilazionato negli anni, cioè quindi si seguono farmacoterapie che durano anni, spesso tutta la vita, perché chi prende psicofarmaci, io ho visto persone che hanno iniziato a prendere i farmaci da quando erano bambine, tende non ad esacerbare la patologia, bensì a cronicizzarla. Sì. Questo, sì. Lui proprio ripercorre tutta la storia degli psicofarmaci, addirittura dimostra che sono nati prima i farmaci e poi le categorie delle patologie, e quindi in un certo senso le categorie sono state fatte. L'intera nosologia psichiatrica è stata disegnata sugli effetti degli psicofarmaci, che via via si sono scoperti anche in maniera piuttosto casuale. Esatto. Questo è molto interessante, fa capire come la diagnosi psichiatrica sia qualcosa di molto differente da una diagnosi somatica, diciamo, sul cuore, sui polmoni, dove lì ci sono degli oggetti osservabili. In effetti la psiche o la riduciamo a un funzionamento meramente neuronale, o se no è un qualcosa di plastico e anche di culturalmente determinato. E la stessa diagnosi psichiatrica in certi casi diventa una vera e propria condanna per appunto quest'uso cronicizzante, diciamo, degli psicofarmaci. Questo sicuramente è uno dei punti su cui il nostro collettivo sta facendo tutto il ragionamento. Sì, soprattutto, come dicevi, cioè il punto è che a un certo punto, anche nel momento in cui i farmaci, gli psicofarmaci sono prodotti da delle case farmaceutiche, dove ovviamente a me, cioè che io li produco, ci guadagno, e c'è una diffusione. Certo, no, infatti appunto io poi magari lo linko, l'abbiamo intervistato Robert Whittaker, e lui sostiene che fondamentalmente il ruolo dello psichiatra, la figura dello psichiatra è stata creata in un certo senso stimolata dalle case farmaceutiche, perché gli psichiatri vivevano una sorta di sindrome di inferiorità nei confronti degli altri medici, no? Che invece magari andavano a studiare patologie abbastanza definite, invece i psichiatri si sono sempre sentiti un po' fuori dalla categoria del medico chirurgo, e quindi a un certo punto hanno detto: sai che, ci vogliamo entrare anche noi, allora facciamo sì che troviamo delle patologie, le definiamo e poi così siamo medici. Questo come tipo tutti di fenomeni, cioè, è una delle tante spie del fatto che la questione del disagio psichico, della sofferenza morale, non può essere affrontato sul piano meramente tecnico. Esatto. Cioè ci sono a monte sempre scelte politiche. Uno psichiatra con cui abbiamo parlato, Vito Danza, che lavora a Pescia, è uno psichiatra basagliano, lui c'ha questa immagine, diciamo, a triangolo, per cui la psichiatria sta come dire all'intreccio, all'incrocio fra la medicina da una parte, la storia delle idee, quindi la cultura dall'altra, e la politica dall'altra ancora. Esatto. Con questo ci introduce un po' all'evento di venerdì, però magari prima mandiamo un pezzo, spezziamo un po' l'attenzione psichiatrica, e poi ripartiamo con l'evento di venerdì con Mark Fisher. Realismo capitalista. Lui su Radio Wombat. E dai, Nacqui moribondo, ora va meglio. Col tempo non guarisco, il punto è questo. Contro il tedio agisco, quasi pronto. Prendimi dal vivo, nacqui moribondo. L'11 di marzo, come tutti, come chiunque altro, anch'io Giovanni Succi. L'anno della luna, uno dopo Woodstock. Sono rimasto in orbita, fuori da tutto. Ero biondo come un putto, e già perplesso. Credo che mio padre soffrisse di questo, un tarlo ereditario che ti trasmetto. Nasci moribondo, presto andrà meglio. Anch'ero così acerbo e sto marcendo. Il mondo accade tutto sempre nel bel mezzo. Butti mezza vita in sonno, un quarto in attesa. Se un quarto te la giochi vale la spesa. Se parli di fortuna non mi lamento. Mi chiamano Gastone in fatto. Questo è il mio momento, ma un momento mio è praticamente sempre dove sono io. Sempre solo scelto quel che per me era il meglio, quel che senti vero, taci e fallo nel tuo tempo. Non piango, non pretendo come quasi tutti. Loro sono loro, io Giovanni Succi. Figlio soldi, quelli veri non li ho mai fatti. Se gli altri hanno le gruppi, sovrò le badanti. Ma non invidio chi fa bingo e poi goodbye. Se dura 30 anni spero fino a mai. Ma sono quindi suono il mio ostaggio. Se voglio rivedermi vivo pago il riscatto. Non ho creduto a niente se non al palco. Abbraccio la mia croce, la mia bella maura. Non so se scendo o salgo, tengo quota. Cado nel tempo spazio di un clean a me. E come Johnny Logan che Superman. Nel circolo stocastico in cui si accade. Schemi di passaggio con due di spade. Combatto nel mio tempo, vengo da un altro. E pesto qualche merda, scendo in ciampo. Fuori dal contesto, anno, saluti e auguri. Nasci moribondo tra morituri, manco in moribondo tra morituri, tra morituri, tra morituri, tra morituri, tra morituri. Sono quindi suono il mio ostaggio, se voglio rivedermi vivo pago il riscatto, se non ti vado liscio prova con ghiaccio. Se non al palco e al tasto stop. Allora, dunque, la salute mentale può diventare una questione politica? Ce lo chiediamo con Mark Fisher e... Realismo capitalista! Eh sì, Realismo capitalista, un libro di Mark Fisher pubblicato dalla Nero Edizioni, e si può dire un po' una pietra miliare, no, della filosofia politica. Del primo, insomma, dei primi anni del nuovo millennio. Parliamo di salute mentale, è uno dei punti che Mark Fisher mette in cima, no? Al suo libro sono tre fondamentalmente: l'ecologismo, la salute mentale e la burocrazia. Sono un po' dei suggerimenti che dà alla sinistra radicale su temi che sono un po' stati dimenticati, ma potrebbero diventare molto attuali. Ne parliamo di nuovo con Percorso Psiche, hanno un'iniziativa questo venerdì. Ciao! Eccoci qua! Allora, perché avete scelto il realismo capitalista, intanto? Allora, perché l'abbiamo scelto? Perché è un buon testo, sotto tanti punti di vista. Ora, sulla edizione di Nero, in quarta di copertina, c'è la citazione di Zizek che dice: non facciamola lunga, questo libro di Fisher di facilissima lettura è semplicemente la miglior diagnosi della situazione in cui ci troviamo. Interessante l'uso di diagnosi, perché per noi è stato importante avere un riscontro in un libro così recente, e così anche appunto di facile lettura, facilmente approcciabile, ma che comunque non sacrifica minimamente la profondità teorica, la semplicità di lettura, quella che fondamentalmente è la tesi fondamentale del nostro collettivo, cioè che appunto la salute mentale è una questione politica che non riguarda soltanto, anche se sicuramente riguarda gli abusi di TSO, la contenzione, però comunque riguarda tutti. La salute mentale è un qualcosa che ci riguarda tutti, perché è qualcosa di ineffabile in qualche modo e che percepiamo tutti e potrebbe sfuggirci da un momento all'altro. E è interessante vedere che la prevenzione in salute mentale, a differenza che in altri contesti, non può che avere una risposta sociale e politica, cioè la creazione di migliori condizioni di vita. Sì. Quindi, secondo noi, diciamo così, affrontare il tema della salute mentale in maniera generale, in questo senso, cioè un problema che riguarda tutti, non soltanto i pazienti psichiatrici, le vittime di abusi e così via, è possibile, ma è possibile solo collegando, inserendolo in un'ottica anticapitalista, poi, fondamentalmente. Eh sì. E per questo ci ritroviamo perfettamente nelle tesi di Fisher, che magari, diciamo, secondo me Fisher non è... diciamo, secondo me l'aspetto più originale in realtà del testo di Fisher forse è quello sulla burocrazia, anche perché è quello più attuale e sì, più nascosto, però giustamente che però è connesso con la questione della salute mentale, assolutamente connesso con la questione della salute mentale, tutto si intreccia nella sua esperienza di insegnante e quindi nella questione dell'educazione. Esattamente. Ora, fra l'altro, lui ne parla un po' a partire, diciamo, dai testi di James Oliver, soprattutto se non mi sbaglio, Il capitalismo egoista, dove Oliver fa tutta delle ricerche e dimostra che riguardo soprattutto alla salute mentale, che vi è stato un incremento incredibile di casi, lui parla dell'Inghilterra, ma non solo, certo. Lui parla dell'Inghilterra, ma degli Stati Uniti, l'Australia, là dove vi è la presenza di un fortissimo capitalismo egoista. E, sì, la sua domanda, che io magari ve la rigiro, come possiamo tollerare il fatto che la salute mentale, soprattutto nei più giovani, venga così personalizzata e quindi cioè, che si possa accettare una popolazione soprattutto giovane e giovanissima con così, un così alto tasso di disturbi della salute mentale? Sì, sicuramente l'esplosione di psicopatologie, l'incremento, l'epidemia, si potrebbe parlare. Si può parlare di un'epidemia. Si può parlare di epidemia, ci sono dati comunque allarmanti se uno li va a vedere, sia sull'uso degli psicofarmaci, sia sulle diagnosi. Io credo che in Italia, per esempio, solo i disturbi alimentari colpiscano, diciamo, 1 milione di persone, probabilmente di più, però diciamo 1 milione di persone. La depressione, 2 o forse addirittura 3 milioni di persone, e così via. Comunque parliamo di numeri che, se riguardassero qualsiasi altra patologia, ci sarebbe l'emergenza, sarebbe dichiarata l'emergenza nazionale. Invece questo non succede, perché si ha l'idea di fondo che il disturbo mentale sia un problema personale. Questo sì, esatto. È la tesi di fondo individualista, diciamo così. E questo dipende anche da un certo modo di concepire la mente, la psiche, come un qualcosa di completamente, appunto, endopersonale, cioè è tutto dentro di te, no? È tutto dentro la tua testa, è tutto. Quando invece. E poi è anche un po' il principio veramente del capitalismo post-fordista. Lui fa questo grosso distinguo, e cioè pre- e post-fordismo. Sì. Lui le osservazioni che porta, appunto, le confronta tra prima del 6 ottobre del 1979 e dopo il 6 ottobre 1979, e quindi, diciamo, facendo una statistica, vede un aumento esponenziale dei casi, dei, sì, insomma, questo, delle cure. Mi sento, sì. Allora, questo passaggio, diciamo, da un capitalismo fordista a uno post-fordista, poi sia nel libro di Fisher che poi in altri testi che, insomma, ai quali magari facciamo anche riferimento, si può leggere anche in altri modi. Fisher, per esempio, usa la distinzione posta da Deleuze fra società disciplinare e società del controllo, e Fisher la riprende perché da insegnante dice: entrate in una mia classe e vedrete un classico clima post-disciplinare, che non è più quello, appunto, descritto da Foucault della società disciplinare, quindi la società moderna sostanzialmente, quella delle carceri, quella soprattutto della scuola intesa in senso disciplinare, ma è qualcosa, appunto, che ti deve mettere in riga, ma una società del controllo, dove il controllo è diffuso, viene portato avanti, appunto, da pratiche burocratiche. Controllo interiore, lo chiama. Sì, è un controllo interiorizzato, che però, perché uno pensa al controllo e pensa a qualcosa che ti limita, no? Invece Fisher è acuto in questo, ci sono anche altri autori che fanno un'analisi simile, però nel notare che la società del controllo ti dà un'apparenza di libertà, un'apparenza di libertà che si basa sulla libertà sostanzialmente del mercato e dei consumi. Quindi questa è, però questa libertà dei consumi è una libertà del desiderio, cioè della possibilità di soddisfare, almeno apparentemente in maniera immediata, il desiderio, e quindi di godere, c'è, cioè, una sorta di imperativo al godimento. Questo è lui riprende anche Lacan, per esempio, che già penso negli anni 70 avesse notato il passaggio da un discorso capitalista in cui bisognava sacrificarsi per fare i soldi a una mentalità capitalista diversa, post-fordista, potremmo dire noi oggi, in cui invece c'è l'imperativo al godimento, cioè quindi a soddisfare immediatamente ogni propria voglia. Poi nelle conclusioni del libro, giustamente, Fisher parla di una supertata marxista, no? Cioè, sì, una cosa del genere. Supertata marxista. Supertata, sì, marxista. Cioè, facendo riferimento a quello che in Italia credo si chiami SOS Tata, cioè questi programmi dove c'è il bambino scatenato, i genitori netti non sono in grado di, come dire, di ammansirlo in nessun modo, allora chiamano la supertata. Fra l'altro credo ci sia un programma analogo anche per gli animali, per i cani, il che è molto interessante. Perché si potrebbe dire che, passando dalla disciplina al controllo, siamo passati alla padella alla brace. In fondo, se ci pensiamo, la società disciplinare è anche quella che ha prodotto le rivoluzioni. Certo. Invece la società del controllo è quella che non produce rivoluzioni, ma produce quello che lui chiama impotenza riflessiva, impotenza riflessiva, sì. Cioè, quindi, una situazione in cui sai che le cose vanno di merda, ma sai anche che non puoi fare assolutamente nulla. Niente. Fra l'altro, il libro credo sia del 2009. 2008-2009. Comunque c'è tutto un discorso, per esempio, sull'hip hop, sull'ascesa dell'hip hop, sul gangster rap, che oggi, secondo me, è ancora più attuale, attraverso, insomma, la diffusione dell'ultima generazione derivata al rap, che è la trap, ma la trap giustamente si chiama trappola proprio perché esprime una mentalità di questo tipo, cioè che sai che vieni fregato dal sistema ma lo fai lo stesso. E c'è questo autocompiacimento della, di una modalità predatoria, e poi è quella che invece caratterizza profondamente il capitalismo, ecco. Sì, appunto, lui poi fa dei focus sulle caratteristiche del capitalismo confrontate a quelle delle patologie della salute mentale, e appunto fa notare che quando un'economia con la picco si dice che è in depressione, va in depressione, certo. E rifacendosi sempre ai testi di Oliver porta all'occhio l'uguaglianza, sono veramente uguali gli andamenti del capitalismo e l'andamento in particolare della schizofrenia, non della schizofrenia scusami, ma dei disturbi bipolari, no? Certo. Quindi che sono alternati da fasi da picchi con depressioni, e quindi poi fa questo anche per altre patologie, però appunto parlando del realismo capitalista lui porta ad esempio la sindrome bipolare. Poi è interessante, diciamo, un'altra cosa, un altro aspetto del realismo capitalista è la descrizione che dà sotto vari piani del capitalismo. Prima di tutto è un realismo irrealistico, cioè è un realismo di facciata. Questo si lega anche, per esempio, alla questione della burocrazia, quello che lui chiama stalinismo di mercato, cioè che tutto deve essere fatto per quello, un tempo si chiamava propaganda, in realtà poi per le public relations, per far vedere che hai raggiunto il risultato. Ce ne abbiamo un esempio in Italia, ma questa cosa viene dagli Stati Uniti, sui test invalsi, no? Che se allora via via si preparano gli studenti non per prepararli, per educarli, ma per fargli fare la performance e far vedere che c'è stato il risultato, e questo è altamente degradante. Fra l'altro avevo letto recentemente un articolo per cui negli Stati Uniti, dopo 20 anni di questo tipo di sistema, si sono resi conto che persino le classi dirigenti di nuova generazione sono troppo stupide per gestire il sistema, e quindi stanno tornando a pensare all'insegnamento della storia, della letteratura, di queste cose qua, perché è vero che il sistema di automazione è veramente elevato oggi e che quindi questo, come ci insegnerebbe Huxley, già comporta una minore responsabilità da parte delle classi dirigenti, ma comunque non siamo, come dire, la macchina non è perfettamente oliata a tal punto che possiamo mettere anche dei completi idioti a capo dei posti chiave e mandare tutto avanti lo stesso, anche se in Italia abbiamo delle preoccupanti avvisaglie in questo senso. Comunque ancora non siamo a quel punto. Sì, ma potrei fare riferimenti ancora più attuali, apparentemente dal basso, ma fortemente verticisti, ma questo non ci interessa adesso. Quello che mi preme dire sull'educazione, cioè è importante secondo me la conclusione che fa Fischer, per quanto secondo me non vada, per così dire, fino in fondo, comunque non, cioè dato solo degli spunti appunto nel capitolo sulla supertata marxista, però voglio dire, è chiaro che il sistema ha tutto l'interesse a non farci crescere. Io credo che questo poi il punto più profondo sia questo, cioè ha tutto l'interesse a fare in modo che la popolazione sia una massa di bambocci idioti e si beve qualunque cosa, e anche su quello esempi recenti la dicono lunga, secondo me, che si abbocca a qualunque minchiata. Ma quindi giustamente Fischer dice, ma forse tutta questa libertà del desiderio, del godimento, è fondamentalmente stato il capitale che ha recepito un'istanza delle lotte degli anni 70, era appunto la liberazione del desiderio contro un padre autoritario. Ma giustamente Fischer dice, sto padre autoritario serviva all'identità della protesta, non all'identità del sistema. Assolutamente. E quindi invece il sistema a un certo punto ha detto, vabbè, volete godere, allora godete, allora vi si dà tutto, la pornografia, il cibo, spazzatura, tutto quello che volete. Sì. Ecco, e poi tornando a noi e all'iniziativa di venerdì, quindi diciamo voi prendete questo libro di Fischer, che fondamentalmente, come dicevate, è un libro molto semplice, parte da esempi della vita quotidiana, soprattutto da film, sì, da esempi, anche di grande pop, diffusione, appunto sì, musica pop, esempio. Però dà delle linee abbastanza precise, queste quelle tre che dicevamo prima. Quindi io vi chiedo, ma l'iniziativa di venerdì e un po' in generale anche il percorso psiche, a chi si rivolge maggiormente? Si rivolge a un pubblico ampio e generale, oppure a una sinistra radicale che dovrebbe svegliarsi su alcuni temi? Entrambi. Bella domanda. Entrambi. Si può rispondere entrambi, però chiaramente facendo un'iniziativa in un luogo dell'autogestione, in uno spazio occupato come Via del Leone, chiaramente il pubblico che ci aspettiamo a questa iniziativa sarà un pubblico in qualche modo afferente a quello che possiamo chiamare il mondo dei compagni, ecco, o il movimento fiorentino. Poi in realtà lì ci possono essere sorprese, nel senso che noi anche con le ultime uscite che abbiamo fatto, anche sulla contenzione, ci capita di contattare, anche di aggregare persone che non vengono da esperienze politiche, ma che possono dare un grande contributo, perché effettivamente sta cosa della salute mentale nel movimento è un po' un punto cieco. È un punto cieco, Fischer lo rileva, ma lo potremmo rilevare anche qua, voglio dire, anche solo in Toscana gli unici che si occupano del tema sono collettivi antipsichiatrici e quindi si occupano degli abusi della psichiatria, ma allargare il discorso a tutto tondo e occuparsi per esempio della salute mentale di chi fa politica, di quanto il fare politica stesso spesso sia stessa una sorta di dipendenza tossica, questo tipo di riflessione invece non viene fatto, e secondo me invece qui parlo forse più, quasi più a titolo personale, però è una riflessione che andrebbe fatta. In fondo le aziende sono armate fino ai denti di strumenti psicologici per dalla psicologia del lavoro che serve a far stare contenti i lavoratori sfruttati, agli strumenti di team building per i dirigenti, alle tecniche di manipolazione dei gusti delle persone attraverso il data mining, eccetera eccetera. A vari livelli comunque si vede che la controparte, diciamo così, è armata fino ai denti di strumenti psicologici, mentre invece il movimento sedicente rivoluzionario questo tipo di strumenti non li ha acquisiti. C'è una parziale eccezione, sentivo anche prima la compagna di Nuna di Meno che parlava insomma della loro assemblea, una parziale eccezione lo fa il movimento femminista, e sicuramente parlando di tematiche anche intime, di cose che non si raccontano facilmente, si deve comunque e si è dovuto dotare di strumenti per creare ambienti accoglienti dove persone potessero parlare, ma questo è un'eccezione, diciamo. Sì, mi trovo abbastanza d'accordo con quello che dici. Infatti, insomma, ritengo anche che il vostro collettivo abbia un ruolo piuttosto importante nelle dinamiche, quantomeno cittadine, ecco, poi vi auguro anche oltre. Quindi, bene, dai, allora, forse voi, fra l'altro, dovrete andare perché avete l'iniziativa fra pochissimo, quindi... Sì, dobbiamo scappare. Tipo, vi lasciamo andare, magari ricordate un po' la vostra assemblea, avete una pagina dove contatti. Qualsiasi cosa, c'è la nostra pagina Facebook, Percorso Psiche, o la nostra mail, percorsopsichemail@gmail.com, oppure se volete passare in assemblea, ci vediamo di domenica alle ore 9 all'occupazione di Via del Leone. Di sera. Sì, domenica. Via del Leone 60/62. E ovviamente l'assemblea è aperta a tutti e a tutti. E siete tutti invitati. Sì. E il 20 appunto in Via del Leone alle ore 18. Con realismo capitalista. Mentre noi non scappiamo adesso in Viale Morgagni per l'iniziativa sulla contenzione. Bene, grazie mille. Allora, grazie, buona iniziativa. A prestissimo. Ciao. Fotografar Anche le foche bevono Radio Wombat. Sono finite le chiacchiere seriose. Sono finite anche le chiacchiere in generale, mi sa, per questa settimana, vecchio mio. Almeno noi, non vi perdete, Cocco del Silicio alle 9:30 con il buon Ginox, che ogni settimana ci porta su un sacco di temi stra interessanti per smanettoni e smanettone di tutto il mondo. Noi che famo? Ci vediamo la settimana prossima o no? Allora, boh, non lo so. Allora, magari io spingerei per fare una vecchia formazione, che è quella di Fuoco alle Polveri, e quindi magari ci vediamo, sì, si fa un revival, una cosa allargata, conterrà magari una rassegna eventi che sarà un po' scarna, visto che ci saranno le feste di mezzo, quindi, oh, settimana prossima è Natale, C'è Frida, ha perso il caricabatterie, forza, vieni Frida, stavamo chiudendo la trasmissione, vieni. Forza, occhio, dov'è il caricabatterie, vediamo. Ah, è vero, no? Perché io mi sono presentato senza caricabatteria. Va benissimo. Pronti, mandiamo la canzone. Dai, ci vediamo la settimana prossima. Evviva, grazie di nuovo a tutti. Perfetto. Vaffanculo, buon Natale. Buon Natale a tutti e tutte. Dalla Trapunta e da Radio Wombat. A presto. Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune, I turned my face.